Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, sempre al centro le tensioni in Europa e sul debito italiano, ma non solo. Oggi, come i nostri GR vi hanno raccontato, un'asta importante di bot ha visto andare bene la domanda, cioè il Tesoro, noi abbiamo chiesto 6 miliardi e mezzo di euro come prestito. Sono stati tutti ottenuti, quindi tutti i bot sono stati sottoscritti. Piccolo problema: quello che abbiamo dovuto offrire per trovare compratori per il nostro debito è stato un bel rendimento, e cioè al 3,97% dal 2,34% di maggio, rendimento del bot in asta oggi, bot annuali, ed è tanto in più. Tra l'altro, il rapporto fra la domanda e l'offerta è sceso a 1,73 contro 1,79 di maggio, quindi la domanda c'è, però attenzione, è leggermente in calo. Per quello che riguarda i temi, questo è uno dei temi della giornata. Anche lo spread, dopo essere stato stabile, è tornato a salire, è arrivato a 480 punti, era rimasto fermo a 457, ma sono sempre livelli altissimi, lo ripetiamo fino allo sfinimento. E poi ci sono i giornali anglosassoni, Londra e New York, Wall Street Journal da una parte e Financial Times dall'altra, che dicono è finita la luna di miele di Mario Monti con il paese, e con un'Italia che combatte la crisi, e il Financial Times che dice mamma mia, titolo in italiano, l'Italia di nuovo nella tempesta, mamma mia, ci risiamo di nuovo. Roma, dice Financial Times, si ritrova nuovamente nel bel mezzo della tempesta dopo una relativa calma di alcuni mesi. Anche di questo parleremo, cercheremo anche di diversificare. Questo tema purtroppo ci sta accompagnando da giornate intere. Ci sono dati su alcuni settori produttivi, il settore del legno arredo, il settore del turismo, che soprattutto per quello che riguarda le presenze alberghiere si prepara a un'estate calda, ma non da un punto di vista meteorologico. Ancora per quello che riguarda i mercati, nemmeno oggi ce la fa Milano, perché meno 1% adesso l'indice MIB, FTSE MIB, meno 1% anche Parigi, meno 0,50% Francoforte, Londra più 0,15%, l'America meno 0,15%, euro a quota 1,2572. Devo dire che oggi, rispetto agli ultimi giorni, qualche bancario qualcosa recupera. Penso alla Popolare Emilia Romagna più 1,85%, a UBI Banca più 1,12%, alla Popolare di Milano più 0,80% e alle Generali più 2,30%. Il Banco Popolare e Unicredito guadagnano lo 0,20%, c'è chi flette ancora, mi riferisco al Monte dei Paschi, meno 4,60%, 18 centesimi di euro per azione, e sempre sul fronte bancario Intesa San Paolo perde lo 0,30%. Il peggior titolo in questo momento è A2A, meno 5,80%, poi Exor, la finanziaria che controlla il gruppo Fiat, meno 5,15%, Pirelli meno 3,90, Mediaset meno 3,90 anch'essa, come Parmalat. Il 3,70 lo perde Prismian, il 3,50 Finmeccanica, il 3,30 Fiat e il 3,16% Saipem. Chiudo con Tenaris meno 2,30%, Impregilo meno 2%. 349-238-6666 per i vostri SMS. Rapidamente le altre notizie in breve. Certo, affronteremo, rispondo già dei messaggi, anche la situazione politica, visto l'incontro di Mario Monti ieri sera con Alfano, Bersani e Casini, e visto anche il dibattito in Parlamento, il tentativo da parte del governo di arrivare poi con una forte appoggio politico. Mario Monti è arrivato mezz'ora fa a Berlino per l'incontro con Schäuble, con il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, e poi riceverà un premio alla European School of Management and Technology di Berlino. avremo uno spazio apposito sull'intervento del Presidente del Consiglio alla Camera quando ha annunciato l'avvio di un'operazione crescita che possa ridare fiducia con i mercati. Ha detto Monti, infatti, ora scatterà l'operazione crescita, Parigi e Berlino sono con l'Italia, il momento è intenso e cruciale sia per l'Unione Europea che per l'Italia. E poi ha detto attenzione, occorre stabilire meglio quali obiettivi si deve dare l'Unione Europea. Quali obiettivi verso l'Unione Europea? Beh, nella primissima fase abbiamo avuto l'obiettivo di mostrare con le azioni che facevamo all'interno del Paese di non aver bisogno della protezione un po' paralizzante altrui. Posso rivelare che in quella fase eravamo molto sottoposti a paterni, qualche volta materni, consigli, ma perché non fate domanda di appoggio, di finanziamento da parte del Fondo Salva Stati o del Fondo Monetario Internazionale? Questa situazione l'ha vissuta per primo il mio predecessore, il Presidente Berlusconi, nelle giornate del G8 o G20 di Cannes, a fine ottobre, primi novembre. Ma poi anche noi nei primi 2-3 mesi abbiamo avuto questo tipo di comunicazione. Abbiamo preferito che il Paese cercasse di fare da sé, non perché sia una cosa necessariamente disdicevole essere assistiti, ma abbiamo visto che l'assistenza, adesso la Spagna ce l'ha per le banche, una cosa specifica, ma un'assistenza across the board, generalizzata, perché un paese non si rimette in piedi da solo con la finanza pubblica, vuol dire la cosiddetta troica. Cioè vuol dire che se non ti rimetti da solo con il deficit e il debito, poi ti commissariano. La troica è quella che ha la Grecia, no? Fondo Monetario, BCE e Commissione Europea. Sempre Monti sul lancio dell'operazione per la crescita. Provvederemo nei prossimi giorni a un altro piccolo concentrato di misure per la crescita. Propongo di non chiamarlo decreto crescita o decreto sviluppo, lo iscriverei piuttosto in una operazione crescita, di cui questo sarà un altro tassello importante, perché dobbiamo vedere le cose, diciamo, nel tempo, e quindi quando valuterete, l'opinione pubblica valuterà quest'altro provvedimento, inviterei a tenere presente che non è la prima cosa che viene fatta per la crescita, ma purtroppo ci vuole tempo perché gli input per la crescita diano luogo ad un output di effettiva maggiore crescita. Teniamo anche presente che nella struttura stessa di questo governo l'attenzione alla crescita e allo sviluppo è presente proprio in termini architettonici, perché per la prima volta abbiamo creato un ministro per lo sviluppo economico e per le infrastrutture e i trasporti, quindi con una grossa responsabilità e capacità di muovere energie proprio verso la crescita. Ancora il ministro Passera oggi ha detto l'Italia si è messa in sicurezza negli ultimi 3 mesi del 2011, nei primi del 2012, la nostra situazione è diversa da quella di altri paesi, speriamo. E poi sempre il ministro Passera, l'Europa si dia una mossa per risolvere e per trovare una soluzione di fondo alla crisi. A questo proposito vedo molti messaggi che dicono: ma lo sa che Oscar Giannino questa mattina ha detto che non la pensa come lei sulla Germania e che ha ragione Angela Merkel? Certo che lo so, ci sentiamo spesso con Oscar Giannino e meno male anche che la pensiamo in maniera diversa. Non è una radio monolitica questa che dalle 9 o dalle 7 alle 21 ripete sempre. Ognuno ha opinioni diverse. Oscar Giannino legittimamente ritiene che Angela Merkel faccia bene a chiedere tutto questo rigore. Io ritengo, penso con altrettanta legittimità, che in questo momento il rigore vada bene, ma non basti, che servono anche elementi per la crescita, perché sennò ci stiamo avvitando. Riduci le spese, aumenti le tasse, la gente spende meno e questo ti comporterà un deficit più alto perché il PIL calerà più delle attese. Ma non abbiamo mai detto questo, voglio essere chiaro, perché la pensiamo nello stesso modo sia io che Oscar Giannino, che non serve il rigore. Meno male che la Germania ci ha chiesto il rigore, e dovremmo fare un po' di più, visto che raccontiamo ogni giorno che tipo di spesa pubblica abbiamo in questo paese. Però non basta solo quello, non si può lasciare le praterie alla speculazione, per esempio nella garanzia sulle banche europee. Serve un'autorità europea su questo, e a mio avviso anche per quello che riguarda alcuni investimenti europei sugli eurobond e sul debito a livello europeo. È un processo più lungo, ma personalmente trovo che se sei nella stessa casa devi dividerti anche i debiti, piaccia o non piaccia. Il ministro Passera ha parlato anche della vicenda di Termini Imerese, perché ha detto DR non ha DR Motors, noi l'abbiamo cercato, Derigo, ma non ci risponde, non ha risorse, dovremmo trovare un'alternativa. Bella sola se avanti così, ha tirato Derigo ai 2200 lavoratori, 640 dei quali esodati, rimasti cioè nel limbo dopo la riforma previdenziale del ministro Fornero. Dico bella sola, ha tirato a chi gli diceva che cosa capiterà di loro. Beh, arriverà l'impianto da DR Motors. Poi si è scoperto, stando così le cose, se vuole smentirci ci smentisca, che quella era un po' fuffa, mancava solo questo. E visto che abbiamo parlato molto in questi giorni della Sicilia, delle spese folli, dei 20.000 dipendenti più 27.000 tra collaboratori precari a progetto, di quanto costi a ogni siciliano pagare i suoi rappresentanti regionali, 340 euro contro una media di 20 euro in Lombardia e di 60 euro in Campania, di come lo stipendio del governatore lombardo e presidente della regione Sicilia sia più alto anche di quello di Ban Ki-moon, quindi segretario dell'ONU. Oggi Raffaele Lombardo era ospite a 24 mattina con Alessandro Milan, ha detto non mi ricandido, curerò il mio agrumento, e va bene, ce ne faremo una ragione. E ancora sui camminatori, vi ricordate che ne avevamo raccontata nelle notizie sulla crisi, ma cos'è questa crisi, che la regione Sicilia stava cercando lo scorso 17 maggio anche 30 camminatori, cioè i dipendenti che avevano il compito di spostare le pratiche da un posto a un altro, e scoprendo di non avere, nonostante i 20.000 dipendenti, di non avere personale sufficiente. Pensate che la pubblica amministrazione siciliana ha, in realtà si arriva a 20.000 perché ci sono più di 16.000 dipendenti, e poi i dirigenti nella regione sono 1.200. E il camminatore, cioè insomma, cercare un camminatore è una cosa importante, ha risposto così ad Alessandro Milan Raffaele Lombardo oggi. Vi chiedo di informarvi per benino, questi cosiddetti camminatori, che poi non è che sono proprio camminatori, sono anche addetti, come dire, a traslochi o roba del genere, perché se ne fanno sono interni all'organico regionale. Fare un mestiere diverso, può darsi che questo mestiere gli comporterà ovviamente un incremento di stipendio di 100 euro o di 50 euro, se ci sono. È doveroso. Cioè non sono dipendenti in più, sono riqualificati, diciamo. Anche se qua si parla delle decine di migliaia di dipendenti, e questo è vero, lei la prego di prendere atto, lo dico attraverso la radio, che noi, il primo governo della regione da 60 anni a questa parte, che ha fatto una legge, ma prima vigeva un mio atto deliberativo, la legge l'abbiamo fatta a fine 2008, cioè lo stesso anno dell'insediamento, ci siamo insediati ad aprile-maggio del 2008, di blocco delle assunzioni, non soltanto nella regione, cioè nell'organico regionale, ma anche in tutte le aziende, le partecipate, controllate, finanziate dalla regione. Quindi nuove assunzioni non se ne sono potute fare. E che sono? E quindi riqualificazioni delle persone già dipendenti della regione? Oppure individuazione di profili professionali che magari ieri non servivano e oggi servono. Ma servono davvero nell'era della tecnologia quelli che vengono definiti camminatori? Se si intende per camminatori colui il quale si muove fisicamente per andare a depositare una lettera, perché internet si usa anche dalle nostre parti, chiaramente sbaglieremmo. Si tratta di soggetti che devono fisicamente muoversi perché devono spostare oggetti che non possono camminare via internet o altrimenti. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Vabbè, come sempre c'è sempre una giustificazione su tutto, però i casi particolari nella selezione del personale ci sono. In Sicilia ci sono 8 persone che si occupano di relazioni diplomatiche internazionali, ma voglio dire, della Sicilia. In 21 si applicano, pensate, sono 21 dipendenti per la promozione dell'identità siciliana. Anche qui un termine leggermente fumoso. Il capo del Dipartimento del Lavoro ha preso la funzione in senso estensivo, cioè lui è capo del Dipartimento del Lavoro e cosa ha detto? Beh, devo assumere, no? Perché se sei capo del Dipartimento del Lavoro non assumi. E infatti ha 32 collaboratori. L'ufficio di presidenza conta 157 chauffeur. Io non ci voglio credere che ci siano 157 autisti o che fanno le funzioni dell'autista. E poi invece ci sono certi uffici che hanno un solo dipendente, ma uffici minori, no? Per esempio l'ufficio sismico regionale, che notoriamente in Sicilia, no, le scosse non sono un problema, un solo dipendente, però ne servono 8 per occuparsi di relazioni diplomatiche internazionali. Il servizio liquidazioni enti, il servizio gestione interventi post diploma e università e il servizio isole minori dell'assessorato alla salute. Governatore Lombardo, che dobbiamo dirle? Buone arance, buon agrumento, a questo punto ci proverà qualcun altro, perché evidentemente avrete pure bloccato il turnover, ma anche dentro i quasi 20.000 dipendenti qualche movimento si poteva fare. Noi invece torniamo purtroppo a occuparci di debito, di bot, di aste. 349-238-6666 per i vostri sms. Alcuni ascoltatori mi segnalano che ho detto Derigo invece che Derisio. Chiaramente Derisio, l'uomo che ha tirato per il momento, stante così le cose, una bella sola ai dipendenti di Termini Imerese. Derigo, che fa occhiali, non c'entra nulla. Chiedo venia se mi sono sbagliato. Il primo tema è quindi la crisi 2.0. Tasso che schizza quasi al 4% nei bot a un anno. Pensate che a maggio, solo a maggio, rendeva il 2,34% il nostro bot a un anno. Adesso rende il 3,97%, vuol dire che a noi ci costa l'1,6% in più come rendimento trovare finanziatori per il nostro debito. Questa volta erano solo 6,5 miliardi, ma è chiaro che se questo fosse esteso a tutto il nostro debito saremmo nei guai, pagare così tanto per trovare finanziatori per il debito. Domani c'è un'asta importante, BTP a 3 e 8 anni per un ammontare massimo di 4 miliardi e mezzo complessivi. Lo spread è andato su e giù a 450, poi 480, poi è ridisceso. Anche in Germania c'è stata un'asta dei Bund a 10 anni, BTP tedeschi a 10 anni. I rendimenti sono leggermente saliti, pochissimo, dall'1,47 all'1,52%. Berlino dice: stabilizziamo l'euro, non solo l'Italia, non intendiamo occuparci in modo specifico dell'Italia, però il premier spagnolo Mariano Rajoy ha chiesto all'Unione Europea di agire con urgenza per stabilizzare i mercati finanziari. Accanto a me c'è Fabio Pavesi del Sole 24 Ore. Fabio, buonasera. Buonasera a te, agli ascoltatori. Dunque, il bicchiere in questi casi si cerca anche di vederlo mezzo pieno e devo dire che la domanda è stata abbastanza buona per questi bot a un anno, 1,7 rispetto all'offerta, il tesoro ha collocato tutti i 6 miliardi e mezzo. Le tensioni però si registrano e domani sarà un'altra giornata di test. Ma è grave in realtà questo rialzo forte dei rendimenti. Più il rialzo dei rendimenti avviene nella parte breve della curva, cioè titoli a scadenza breve, più segnala un rischio paese, nel senso che il mercato ti chiede, anche solo per detenere il tuo debito, anche solo per un anno, ti chiede tassi che noi vedevamo l'autunno scorso, nel pieno della prima fase della crisi. Quindi la situazione è drammatica. Il Sole ha lanciato un appello a un fare presto nei confronti della cancelliera Merkel. Ricordiamo due appuntamenti: noi a domenica avremo le elezioni greche e questo è un primo passaggio. E su questo la stampa greca, il quotidiano Katimerini, poco fa ha diffuso la notizia che stanno scappando gli investitori dalle banche di Atene. Il flusso quotidiano di depositi in uscita dalle principali banche avrebbe raggiunto i 500-800 milioni al giorno fra ritiro di contanti, bonifici verso l'estero e disinvestimenti. Beh, guarda che questo è un fenomeno che dura oramai da 2 anni. Se pensi che le banche greche detenevano depositi per 250 miliardi, oggi sono scese a 150, hanno perso in 2 anni 100 miliardi di ricchezza. Evidentemente i greci che potevano farlo hanno trasferito all'estero i soldi. Ed è il tema della fuga dei depositi è il tema più inquietante, perché quello che è venuto in Grecia sta avvenendo anche in Spagna, che per anni ha coperto la crisi bancaria sotto un manto di opacità, perché quando Banchiami esce con 19 miliardi di buco e il mese prima presenta una trimestrale con i conti in perfetto ordine, qualcuno si pone il problema: i bilanci delle banche sono ancora credibili? Questo è un altro tema. Ma tra l'altro gli stress test su cui ci siamo dilettati per un anno nel 2010, ma sono serviti a una niente questi stress test? Perché erano una sorta di finzione scenica, perché se tu decidi che quel credito è solvibile, cioè tu hai fatto un prestito e anziché dichiarare quel prestito insolvente, quindi tu decidi che allunghi la scadenza di quel prestito e quindi per te rimane un prestito in bonis, e allora trucchi le carte. Anche l'EBA, da questo punto di vista, che fa solo un esame tecnico, viene presa in contropiede. È accaduto questo. Le banche spagnole, pur sapendo che molti crediti, prestiti immobiliari, erano inesigibili, allungavano le loro scadenze, facendo diventare solventi. Quindi tu leggi il bilancio e il bilancio apparentemente è sano. Cioè, per tradurre a tutti, se io ti presto 100.000 euro e poi tu con la tua attività sostanzialmente fallisci, sei sul lastrico, quei soldi non me li ridai l'anno prossimo, me li dirai tra 5 anni. O mettere in bilancio la verità, e cioè dire i soldi che ho prestato a Pavesi non li rivedrò. Esatto. Oppure fare finta che siano ancora solventi. Oppure fare finta, non li voglio quest'anno, li voglio l'anno prossimo. Tanto tu l'anno prossimo sei morto uguale, esatto. Però io intanto falsifico, tra virgolette, perché un bilancio. Questa cosa che è avuta in Spagna è molto grave, perché dentro a questa speculazione di mercati, poi non la chiamo speculazione, ma è il mestiere che fanno i grandi possessori di denaro. Vanno laddove cercano occasioni di profitto. E ovviamente se tu sei un fondo americano e vedi l'Europa in queste condizioni di estrema fragilità, punti le tue carte sul dissolvimento dell'euro, perché sai che ci guadagnerai. Noi la chiamiamo speculazione, ma è questo tipo di attività. E se tu occulti i bilanci bancari, ovvio che dai fiato alla speculazione. Mm-hmm. Perché tutti si chiedono: ma il Santander, il bilancio del Santander, è quello che vediamo o nasconde qualche crepa? E questo non fa che accelerare l'ulteriore nervosismo del mercato. Questo è il tema. L'altro tema importante che la crisi sta segnando è il deflusso degli investimenti esteri sui vari paesi. Cioè tu hai una sorta di ritorno a casa del debito. Adesso vi do solo un dato: la Spagna aveva investitori esteri sul suo debito pari al 49% a dicembre del 2006, quindi in pieno fulgore. Oggi è scesa al 31% quella quota, cioè su 100 euro di debito spagnolo, 50 erano in mano agli stranieri fino al 2006, che era il momento di picco di fulgore. Adesso sono diventati il 31, cioè vuol dire che il 20% del debito estero è tornato in mani spagnole. La Spagna ha dovuto ricomprarsi il proprio debito perché gli investitori del nord Europa sono fuggiti, Germania in testa. Ecco perché le banche spagnole sono piene di bonus, ecco perché le banche italiane sono piene di titoli di Stato, perché ha dovuto supplire alla fuga degli investitori tedeschi. E quindi abbiamo un'Europa che è divisa sempre più in due, con una Germania sempre più ricca. Ricordiamo che la bilancia dei pagamenti tedesca dal 2002 è in continua ascesa, e la Bundesbank ha crediti per 800 miliardi verso Italia, Grecia, Spagna e Francia. Ma cosa vuol dire? Che se va a pezzi l'euro, questi crediti della Bundesbank sono persi. Quindi il rigore della Merkel è giustificato fino a un certo punto, perché, e qui do ragione a Sebastiano, a un certo punto questo eccessivo rigore finisce per rompere il vaso, e se rompi il vaso il conto lo paga anche la Germania. Questo allora, che io dico sempre: se tuo figlio non studia, è giusto punirlo, certo. È giusto chiedergli di fare i compiti, è giusto dargli delle punizioni esemplari, non esci più il weekend, è quello che volete, però è chiaro che devi dargli anche una prospettiva. Tu studia, mettiti in riga, poi ci penserò io, e se tu va bene l'estate la passano in vacanza, perché se tu gli dici adesso non avrai più niente, questo qua è probabile che non solo non studi ma non vada neanche più a scuola, allora tu hai l'abbandono scolastico. Cioè, certo. Tradotto in termini, io sono d'accordo con Oscar che meno male che c'è chi chiede, Oscar Giannino, rigore in Europa, e a noi questo ha portato a fare la riforma delle pensioni, a cercare di fare la lotta all'evasione, vedremo anche se si riuscirà a tagliare un po' di sta spesa pubblica. Tutto giusto, però attenzione che in questo momento si sta avvitando la situazione. Tu con i tagli penalizza l'economia, l'economia si ferma sempre di più, aumenta la disoccupazione, i consumi continuano a calare, le aziende producono sempre di meno e tu devi comprarti il tuo debito perché gli stranieri scappano, e quindi adesso le nostre banche sono piene in pancia di BOT e BTP italiani. Ecco perché vengono massacrate quando si attacca al debito italiano, perché dicono: chi è che ha più debito italiano in pancia? Le banche italiane. E quindi diventano un succedaneo del debito pubblico e vengono vendute in borsa per questo motivo, mica per altro, perché le banche di per sé italiane sono più solide delle spagnole, certo. Questo è un dato di fatto. Il problema è che vengono vendute perché contengono in pancia una parte sostanziosa del debito pubblico italiano. No, però fai bene a ricordare in maniera anche, diciamo, utilitaristica, che svantaggio avrebbe la Germania. Ne avrebbe due sostanzialmente. Ne avrebbe uno, due, che perderebbe, che non esporti più niente. Non esporta più niente perché la valuta unica ha permesso a un marco troppo forte di indebolirsi, esatto. E quindi di rendere competitive le merci tedesche sulla Grecia piuttosto che la Spagna. Il problema è che la Germania ha accumulato quindi ricchezza, flussi di capitale che dall'Europa meridionale sono affluiti verso il nord Europa, Germania, Olanda e Finlandia in testa. Questi sono accantonati lì, hanno costruito ricchezza, hanno permesso di avere surplus di bilancio. Il problema è che se domani la Grecia, ma domani forse la volta della Spagna, tu avresti questi crediti che diventano inesigibili perché avresti crediti verso paesi morti, e quindi non conviene neanche alla Germania tirare la corda fino all'estrema ratio. Cioè conviene tirare la corda ma non spezzarla, è quello che cerchiamo di dire quando diciamo va bene il rigore ma mettici dentro anche un po' di prospettiva, un po' di crescita, e soprattutto tranquillizza i mercati internazionali. Come farlo, visto che ce lo chiedete? Iniziando a garantire per tutte le banche dell'area euro, come capita negli Stati Uniti, tutte le banche americane sono garantite dalla Federal Reserve. Non è che ogni singola banca della Florida piuttosto che la California garantisce per le sue banche. Sei una confederazione di stati, ma hai una banca centrale per tutti. O se passasse questo, già secondo me vedremo un altro scenario, perché nessuno si mette a attaccare l'Europa se l'Europa è unita. In questo momento la stai facendo fuori, ricordate Oreazzi e Curiazzi, un pezzo per volta, e questo è il problema. 10 piccoli indiani. ...17:40 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. La borsa chiuso non sui minimi, meno 0,60%, qualche recupero sui bancari, adesso vi arriviamo. E però vorrei chiudere con Fabio Pavesi. Alcuni ascoltatori hanno scritto: ma attenzione, in America però, anche se la Federal Reserve garantisce per tutte le banche, qualche banca è fallita. Qui non si tratta di non fare dei fallimenti pilotati, qui si tratta di dire che c'è un'autorità europea, una banca centrale o un fondo che garantisce sulla solidità di tutte le banche dell'area euro. Comunque, Fabio. No, beh, non confondiamo le cose. Ricordiamo che il mondo anglosassone ha speso 3.500 miliardi di dollari per salvare le sue banche. L'Europa tutta insieme, tra aiuti alla Grecia, alla Spagna, questi recenti, ha messo in campo 500 miliardi. Quindi un sesto di quella potenza di fuoco. Ovvio, le banche americane sono fallite perché il male, come dire, è partito da lì. E ha fatto bene Draghi a ricordare a Obama da che pulpito viene la lezione, perché la crisi finanziaria che noi viviamo è partita dal fallimento di Lehman Brothers, se ricordate, dalla crisi dei mutui subprime, quando le banche inondavano di prestiti per mutui a chiunque, anche chi non aveva reddito. Quindi le responsabilità di questa crisi sono innumerevoli e nessuno può ergersi a paladino, neanche Obama. Ma c'è una differenza, che gli Stati Uniti d'America hanno una banca centrale che stampa moneta, hanno un governo federale e sono in grado di intervenire, come dire, iniettando magari tanti soldi, ma facendolo. L'Europa non ha un governo degli Stati Uniti d'Europa, non decide su un fondo. Guardate la lentezza con cui procedono le discussioni sul fondo salva stati, se ne parla da più di un anno. E quindi tu hai i mercati che sanno che la potenza di fuoco pubblica dell'Europa è una potenza di fuoco limitata e piena di inciampi, e quindi è facile per la speculazione mettere le proprie carte contro il destino dell'Europa. È tutto qua. Sì, è facile perché le stiamo fornendo alla speculazione tutti i motivi possibili, e su questo, ripeto, uno poi può ragionare come, con quali meccanismi, però occorre dare una risposta unita. Va bene anche rinunciare alla sovranità, quello che chiede la Germania, cioè delegare a una nuova Costituzione europea, basta che si faccia in fretta, perché ieri Christine Lagarde ha ripetuto: avete 3 mesi di tempo per arrivare a un punto di non ritorno sull'euro. E attenzione anche a questo. La Germania, do un'ultima risposta però, allora, sulla Germania. Dunque, la Germania in questo momento, noi stiamo dicendo che converrebbe, non è che la Germania debba salvarci perché siamo belli italiani e simpatici e solari. La Germania deve tenere in piedi l'euro, l'area euro e soprattutto Francia, e soprattutto Spagna e Italia, perché ha 800 miliardi di crediti, le banche tedesche, verso questi paesi. Se veniamo giù noi, viene giù anche lei in qualche modo. Non è il caso greco. E il caso greco è stato un errore clamoroso. Bisognava commissariarla ma salvarla, non commissariarla ma affamarla, e così questa si avvita al quarto anno di crisi consecutiva. Non so più come spiegarlo, non è un regalo che faranno a noi tedeschi, fanno un regalo alla loro industria e poi vediamo cosa succederà. Grazie Fabio Pavesi. Grazie. Adesso però la borsa. Borsa meno 0,65%, meno 0,14% Francoforte, meno 0,55% Parigi, e Londra invece positiva, anzi invariata adesso, l'America invariata anch'essa, l'euro riconquista quota 1,26. Eleonora Micheli, Radio Colle Sole 24 ore, buonasera. Buonasera. Qualche piccolo rimbalzo sui bancari, Generali più 3%, Popolare Emilia Romagna più 1,80%, UbiBanca più 1,20%, Pop Milano più 1,10%. Banco Popolare più 0,60 come Unicredit, lo 0,30 lo guadagna Mediobanca. Negativa invece sia Intesa San Paolo di poco, meno 0,10, ma soprattutto il Monte dei Paschi, meno 4% anche oggi. E a questo punto partiamo dal Monte dei Paschi. Eh sì, il Monte dei Paschi ha vissuto una giornata critica anche quest'oggi, meno 4% dopo il calo di ieri. La capitalizzazione della banca di Siena è arrivata a 2,1 miliardi. Gli investitori si interrogano su quello che succederà da qui a fine mese. Entro fine mese infatti l'istituto deve rispettare i dettami dell'EBA, che aveva chiesto un rafforzamento del capitale di 3,1 miliardi. E proprio oggi il Sole 24 Ore indicava la possibilità che potrebbero essere messi anche strumenti ibridi, obbligazioni ibride convertibili. Poi è attesa anche la cessione di Beaver Banca, dalla quale appunto l'istituto dovrebbe raccogliere circa 200 milioni, ma si tratta ovviamente di poca cosa. Di sicuro qualche dettaglio in più emergerà il 25, quando si terrà il consiglio di amministrazione della Banca Senese per approvare il nuovo piano industriale. Sì, che appunto il titolo è sceso a 18 centesimi di euro per azione. Alcuni mi chiedono, ma secondo lei bisognerebbe stampare moneta, creare un po' di inflazione? Secondo me sì, secondo me stare con l'inflazione al 3%, tanto è tutto petrolio quello, non è inflazione da consumi, non è inflazione perché siamo ricchi e spendiamo tanto, i prezzi salgono, è tutto inflazione che arriva dalla benzina e dal gasolio. L'America ha un'inflazione doppia, la Gran Bretagna quasi doppia, per cui potremmo tranquillamente beccare qualche punto di inflazione, il che permetterebbe di abbassare il valore del debito. Torniamo in diretta per commentare la borsa. Fiat e Fiat Industrial, oggi debole tutto il gruppo, e anche Exor meno 5%, Fiat meno 2,40%, Fiat Industrial meno 2,70%. Sì, oggi in verità è andato male tutto il comparto auto europeo, il sottoindice Eurostoxx 600 del settore ha infatti perso il 2,51% e ha accusato la performance peggiore in Europa. Questo perché ovviamente l'economia europea, chiaramente il rallentamento è previsto in recessione, ma non solo, anche l'economia americana dà segnali di rallentamento, le vendite al dettaglio ad esempio sono calate dello 0,2% a maggio e quindi hanno destato una certa inquietudine. E soprattutto la stampa cinese ha indicato che anche l'economia cinese potrebbe rallentare nei prossimi mesi sotto il 7%. Insomma, l'economia mondiale rallenta, quindi rallenteranno ovviamente anche le vendite di auto, e in tutto questo non hanno fatto eccezione ovviamente le Fiat, anche se in verità l'azienda non vende auto in Cina, ma è stata coinvolta nel calo generalizzato del comparto. Ancora, per quello che riguarda i titoli, Telecom Italia Media ha iniziato il processo di vendita, no, della controllata da Telecom Italia. Sì, se ne parla da mesi, ma a questo punto non so. Bene, oggi il titolo è più 6,80. Sì, è stato messo nero su bianco, ma soprattutto Mediobanca, che è l'advisor dell'operazione di cessione, ha iniziato a inviare in giro a eventuali gruppi interessati documenti riservati dell'azienda per appunto

con motori meno potenti, e BMW si sta muovendo su questo fronte. Vedremo modelli più piccoli in futuro e forse avremo anche la possibilità di tornare ai numeri del passato nel segmento premium. Se guardiamo per esempio al nostro marchio, Mini sta beneficiando di questa tendenza di mercato. Esiste dunque la possibilità di orientarsi verso una varietà di modelli, forse non più tanto verso quelli di fascia alta, ma quelli di fascia più bassa ci danno soddisfazioni. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte dell'intervista che abbiamo realizzato con il numero uno di BMW Italia, che è tedesco e che avete già capito dove stiamo andando a parare, al di là dell'analisi sul mercato dell'auto che abbiamo appena sentito. Si chiama Franz Jung, è presidente e amministratore delegato di BMW Italia. Gli abbiamo chiesto a questo punto quando incontra con i suoi colleghi manager di grandi società in Germania o tedeschi manager in Italia, quanto sono preoccupati sullo stallo dei consumi che si registra in Italia, oltre che in Spagna e in Francia. È un argomento molto complesso. Non sono un politico, ma dal punto di vista economico dovrebbe essere nell'interesse dell'Unione Europea che tutti i paesi abbiano economie forti. Riguardo la Germania, penso che sia nel suo interesse avere dei partner europei forti e alla fine tutti dovrebbero trarre dei vantaggi. Questa sarebbe la situazione ideale per l'Unione Europea. Sfortunatamente non siamo ancora a quel punto, anche se i leader europei sono capaci di raggiungerlo e aiutarsi a vicenda, in modo da migliorare la vita per tutti. Are able to get to this point and help each other as soon as possible to make life a little bit better for everyone. Well, of course we are afraid. I mean, if you just look at the Italian market at one point. Sicuramente siamo preoccupati. Sul mercato italiano nel 2007 abbiamo venduto 70.000 unità. Quest'anno siamo molto, ma molto lontani da quel numero. Se questa situazione continua ancora per qualche anno, allora l'impatto sarà molto significativo su tutto il gruppo BMW. Noi vogliamo avere dei vicini forti. Siamo preoccupati, ma abbiamo speranza nei governi dei nostri partner. Speriamo di vedere progressi in questi mercati, forse non domani, ma nel prossimo futuro. Quindi c'è preoccupazione comunque in chi poi deve vendere in Italia. Io ricordo che la Germania esporta più del 50% nell'area euro. Ancora due domande che abbiamo posto a Franz Jung. La prima non è scontata: quali sono i più grossi problemi che incontra un manager tedesco a lavorare in Italia? Però gli abbiamo chiesto anche una critica all'Italia, ma una critica anche alla Germania, cioè se ha delle critiche da muovere all'atteggiamento tedesco nei confronti dell'area euro. Well, I think a little bit less bureaucracy and a little bit more clear direction. Dunque, sul primo fronte direi che vorrei meno burocrazia e maggiore chiarezza sulla strategia, sui piani che si intendono seguire nel breve e medio termine. Personalmente non ho problemi sul fronte culturale e spero che anche gli italiani non ne abbiano nei confronti della mia cultura. Sul secondo punto, non posso criticare i miei connazionali essendo io stesso tedesco. Ma ripeto che i punti critici che trovo qui in Italia sono la troppa burocrazia e penso che anche gli italiani vorrebbero che fosse più chiara la direzione che si vuole intraprendere. No, allora qui secondo me ci sono due chicche. La prima è la burocrazia, voglio dire, chiedetelo a qualunque artigiano, un piccolo imprenditore e commercianti in questo paese, si muore di burocrazia e mi sembra che il governo Monti su questo sia assolutamente fermo. Ma la cosa che mi fa impazzire è che Franz Jung dice, insomma, non posso criticare i miei connazionali. Ora, questa è forse anche una forza della Germania in alcuni casi, perché voi ve lo immaginate la stessa domanda posta da un giornalista tedesco a un manager italiano, di quali critiche può fare ai suoi connazionali? Avremmo fatto un'intervista di 20 minuti su questo. Invece lui dice: no, io sono tedesco, non posso criticare i tedeschi. Qui siamo veramente da due mondi distanti. Ultima domanda: i timori che comunque se si blocca l'Europa, l'area euro, anche la Germania in quest'area non riesce, non riuscirà più a esportare nulla. Yes, of course we are interested to, sicuramente è nel nostro interesse che i partner europei siano stabili dal punto di vista economico, ma non voglio criticare i governi, voglio continuare a fare il meglio possibile quello che sto facendo. I am here to do as much as possible my business. Nel frattempo però oggi Mario Monti ha parlato alla Camera, è arrivato oggi poco fa, un'ora e mezza fa a Berlino, ma ha parlato alla Camera, ha annunciato l'avvio di un'operazione crescita che possa ridare fiducia ai mercati, pur ammettendo che ci sono tensioni molto gravi che riguardano di nuovo l'Italia, oltre che l'Europa. Tra l'altro l'Europa, ha ricordato Monti, viene seguita con apprensione dal presidente americano Obama. Noi condividiamo l'apprensione di Obama, vorremmo che Obama avesse la stessa apprensione anche per la riforma delle banche americane, quelle che ci hanno portato, non dimentichiamocelo mai, in questa bellissima crisi, e cioè separasse le banche d'affari dalle banche che raccolgono risparmio, dalle banche che fanno retail, e superasse soprattutto le resistenze della lobby potentissima di Wall Street, a cui secondo noi appartiene anche il suo ministro dell'economia Timothy Geithner. Non lo dico perché è facile dire Europa muoviti, e muoviti anche tu Obama, perché questa famosa legge che separi la banca d'affari dalle banche che raccoglie risparmio non l'abbiamo ancora vista, evidentemente pure lì le lobby funzionano. A proposito di lobby, poco fa l'Unione Petrolifera Italiana ha segnalato che a maggio c'è stato un nuovo pesante calo nei consumi petroliferi italiani, quasi meno 10% rispetto a maggio del 2011, praticamente meno 9,6% la benzina, meno 8,7% il gasolio da autotrazione, e nei primi 5 mesi dell'anno i consumi di benzina e gasolio sono calati del 10%. Noi ci permettiamo di suggerire una modesta interpretazione per questo: non sarà che in Italia c'è un po' di crisi, che c'è un po' di difficoltà a arrivare a fine mese, che ci sono tasse e rincari di carattere fiscale, e che forse la benzina è un po' troppo alta e anche il diesel? È un'ipotesi, eh? Ho visto che il petrolio continua a essere a $82, ma la benzina continua a essere vicina a record. Suggeriamo questa possibile interpretazione per il fatto che gli italiani, guarda un po', a maggio hanno consumato il 10% in meno di benzina rispetto al maggio 2011, e anche nei primi 5 mesi del 2012 hanno fatto meno 10%. Potrebbe essere un'idea, lo dico al presidente dell'Unione Petrolifera Italiana, il mitico De Vita. Monti che rifiuta la protezione paralizzante di altri, l'abbiamo già ascoltato, ha detto noi avremmo potuto chiedere gli aiuti, ma attenzione, poi ti arriva la troica, cioè vieni commissariato, e poi ha detto siamo consapevoli del bisogno di politiche per la crescita, però la disciplina di bilancio sarà comunque la nostra compagna di viaggio. Siamo tutti consapevoli dell'ansia di crescita così necessaria, e l'ansia di crescita ci può portare qualche volta a dividere il tempo in categorie logiche che non hanno grande riscontro nella realtà, cioè avuti questi buoni risultati sul piano della finanza pubblica potremmo ben chiudere una fase 1 disciplina del bilancio e aprire una fase 2 crescita. Non è così, prima di tutto perché la disciplina di bilancio dovrà essere una nostra compagna di viaggio alla quale ci abitueremo sempre di più, e che non è necessariamente foriera di recessione o di depressione se è accompagnata sul piano europeo e italiano da altre politiche appropriate. E poi l'operazione crescita. Il governo sta lavorando un piccolo concentrato di provvedimenti per la crescita, da noi da non chiamare DL crescita ma piuttosto operazione crescita. Sì, vabbè, non è che stiamo ragionando sui titoli, fate sto di decreto legge, disegno di legge, e poi vediamo. Monti: provvederemo nei prossimi giorni a un altro piccolo concentrato di misure per la crescita. Propongo di non chiamarlo decreto crescita o decreto sviluppo, lo iscriverei piuttosto in una operazione crescita, di cui questo sarà un altro tassello importante, perché dobbiamo vedere le cose, diciamo, nel tempo. E quindi quando valuterete, l'opinione pubblica valuterà quest'altro provvedimento, inviterei a tenere presente che non è la prima cosa che viene fatta per la crescita, ma purtroppo ci vuole tempo perché gli input per la crescita diano luogo ad un output di effettiva maggiore crescita. Teniamo anche presente che nella struttura stessa di questo governo l'attenzione alla crescita e allo sviluppo è presente proprio in termini architettonici, perché per la prima volta abbiamo creato un ministro per lo sviluppo economico e per le infrastrutture e i trasporti, quindi con una grossa responsabilità e capacità di muovere energie proprio verso la crescita. Sì, il riferimento al ministro Passera era ovvio, poi bisogna che però il ministro abbia le risorse, e lo scontro la settimana scorsa con la Ragioneria dello Stato sembrava non andare in quella direzione. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Adesso abbiamo un traffico, insomma, un commento, poi sentiremo altre dichiarazioni di Alfano, Bersani e Casini dopo l'appoggio che ha chiesto Monti, ma insomma ha detto Monti: abbiamo creato un ministero e un ministro che ha anche le infrastrutture, ma forse non gli hanno dato i soldi, no? E beh, il problema delle risorse, quando parliamo di decreto crescita, pacchetto crescita, operazione crescita, appunto non importa quale sia la formula semantica, però occorrono i soldi, e in questo momento i soldi, come del resto ha detto il ministro Passera nei giorni scorsi, non sono moltissimi, sono anzi pochi, tenuto conto anche di quello che è accaduto. Penso innanzitutto all'emergenza terremoto, che ha di nuovo scombussolato i nostri conti pubblici, penso all'emergenza di nuovo che si è riprofilata, che è quella degli esodati, che avranno un costo crescente nel corso degli anni futuri, se si vorrà garantire loro, a questo popolo così sfortunato, una minore precarietà. E penso anche al necessario, sulla carta, blocco degli aumenti dell'IVA che erano previsti tra qualche mese e che invece, proprio per questo motivo, potrebbero ritornare in pista, con ciò ovviamente complicando la situazione e non semplificandola. Sì, tra l'altro sullo spread è risalito, era 440-450, siamo a 473 punti, inaccettabile il livello di spread, non si va da nessuna parte in questo modo. Il traffico e poi invece la parte di politica interna, ci siamo occupati anche oggi molto di Europa, ma insomma l'appoggio politico al governo Monti, anche perché si preannuncia un'estate di fuoco, ma insomma un settembre, se va avanti così, anche peggio. Il traffico. Strade in diretta. Traffico intenso di questi minuti della sera attorno alle grandi città. In uscita da Milano sulla A4 ci sono code per un incidente tra gli svincoli di Agrate e Cavenago. Sempre in A4, ma in Veneto, ci sono code per le piogge intense in atto tra Padova e Venezia. Alle porte del capoluogo ligure, sulla statale 1 Aurelia, non ci si può immettere sulla 10 Genova Ventimiglia all'altezza di Voltri per un incidente tra due mezzi pesanti. Ripercussioni sulla stessa 10 con code in uscita Genova Voltri in entrambe le direzioni. Verso Ventimiglia si incontrano code già a partire dallo svincolo di Pegli. A Napoli sull'autosole è chiuso dalle prime ore di oggi lo svincolo di centro direzionale per la chiusura della statale 162 nelle due direzioni. Una cisterna ha preso fuoco dopo un incidente. Infine sulla 22 del Brennero si incontrano code a tratti per lavori tra Reggiolo Rolo e Nogaro Le Rocca verso il confine di Stato. Ed è tutto, strada in diretta, torna tra mezz'ora. Focus Economia. Gli onorevoli Alfano, Bersani e Casini hanno accettato un incontro a Palazzo Chigi. Ho ritenuto di esporre loro con chiarezza la situazione, che presenta gli aspetti positivi, ma anche, avete visto i mercati in questi giorni, tensioni nei mercati molto molto gravi e che ritoccano l'Italia. Il suggerimento che io ho dato ai capi dei partiti che sostengono il governo è quello, se possibile, di un'intensificazione dell'azione, in particolare per quanto riguarda i tempi. Ci sono delle decisioni che sono nelle aule parlamentari o nelle commissioni, e tutto quello che sarà possibile sotto la guida dei rispettivi presidenti alla Camera e al Senato di fare per portare a conclusione il più rapidamente possibile questi provvedimenti, se sono condivisi, gioverà a togliere quell'idea di mezza cottura soltanto che permette a osservatori, non sempre magari mossi da innata simpatia verso il nostro Paese, di scrivere sì, c'è la tale riforma buona o ottima, ma chissà se il Parlamento la approverà. E questo è un punto cruciale, Guido Gentili, perché insomma Monti ha fatto capire di aver detto: ho bisogno che, viste le tensioni sui mercati, non vi sia il dubbio che quanto il governo decide poi trovi un ostacolo in Parlamento. Nel giorno in cui, come ricordavamo, il Financial Times dice: mamma mia, l'Italia di nuovo in difficoltà, e il Wall Street Journal titola: è finita la luna di miele tra l'opinione pubblica italiana e Mario Monti. Ti faccio ascoltare, prima della risposta e dell'analisi, rapidamente in sequenza i tre commenti oggi di Pierluigi Bersani, Angelino Alfano e Pier Ferdinando Casini. Qui non ci sono palle al piede, eh? Qui c'è gente che si sta caricando di una mediazione difficile col paese in un passaggio difficile. Vede, lei ha sollecitato anche a noi ieri sera l'approvazione dei provvedimenti pendenti in Parlamento, e lo faremo, noi li approveremo, a cominciare da oggi. Dica alla Merkel che se la Germania continua in quella direzione, per quanto lei sia volenterosamente vicino ai temi della Germania, il Parlamento italiano potrebbe avere delle reazioni negative ad una certa politica della Germania. Monti mette in riga i partiti. No, ieri sera, onorevoli colleghi, Monti ha avuto semplicemente un dialogo sereno e serio, una verifica reciproca, perché noi stiamo servendo il Paese. Allora, fermo restando che c'è chi dice: non criticate troppo il governo Monti rispetto agli altri politici, spicca, ognuno la pensa come vuole su Monti, noi continuiamo a fare il nostro lavoro, quindi quando non capiamo le cose lo diciamo. È indubbio che Monti godi un prestigio internazionale fortissimo. Ma allora, Guido Gentili, qua la situazione è che insomma Monti è tornato a chiedere l'appoggio forse più forte ancora dei partiti, perché sente che l'accusa che gli arriva all'esterno è questa, no? Era un momento in cui erano riaffiorate le tensioni all'interno della maggioranza che sostiene Monti, ci sono molti temi sul tappeto che sono state occasioni di scontri e di divisioni, quindi Monti ha cercato con questa convocazione di urgenza di serrare le fila e di spingere, diciamo, verso la maggiore coesione politica possibile. In parte ci è riuscito, perché insomma è stato significativo il vai avanti che gli è stato dato sostanzialmente questa mattina dal dibattito della Camera. In parte le posizioni dei partiti coincidono con quello che già erano le posizioni di Monti, penso alla trattativa che sta facendo lui in Europa per ricercare un nuovo equilibrio tra il rigorismo di bilancio e la crescita possibile. Però il sentiero è molto stretto, e comunque, e questo è da, secondo me, da far notare, i partiti della maggioranza di Monti, in particolare Casini, che fino a questo momento aveva appoggiato, come si dice, senza se e senza ma l'operato dell'esecutivo italiano, questa mattina ha voluto spingere l'accento sul fatto che non è possibile pensare di nuovo a manovre fiscali, e quindi ha, diciamo, messo un paletto, che del resto è condiviso questo anche dal PDL di Alfano e dal PD di Bersani, su questo punto importante, perché ora si tratterà anche di trovare le risorse, da un lato quelle per la crescita e da un lato quello per tappare i buchi nuovi che arrivano da emergenze che non erano previste e che sono appunto quelle del terremoto da un lato e degli esodati dall'altro. Quindi tu dici, hanno fatto capire i tre partiti che non reggerebbe il loro elettorato a una nuova manovra correttiva. Sì, devo dire, questo in termini politici, che sono secondo me abbastanza ovvi, ma secondo me funziona il, diciamo, questo, questa avvertenza funziona anche in termini economici, perché noi sappiamo che con questa pressione fiscale sicuramente non possiamo pensare ad alcune ipotesi di crescita, dobbiamo farla scendere e non possiamo immaginare di alzarla, quindi anche su questo Monti e il governo dovranno fare grandissima attenzione e spingere di più probabilmente sul lato del taglio alle spese, operazione difficile ma a questo momento bisogna farla. Poi ieri citavamo i 45 miliardi che le regioni del sud non riescono a spendere e che perderanno se non hanno dei progetti validi per almeno il 35% di questi soldi, li perderanno entro il 31 dicembre. Io questa cosa continuo a trovarla assurda, cioè stiamo raschiando qualunque cosa e poi c'è chi non riesce, perché non sa le lingue, non sa come si scrive un progetto, a farsi dare i soldi che l'Europa ha già destinato all'Italia, che così andranno ad altri paesi, e che soldi che noi stessi abbiamo contribuito a versare, perché sono soldi dei nostri contribuenti. Tutto questo nonostante le migliaia di dipendenti in Sicilia, in Campania, in Puglia, in Basilicata, che sono le regioni che meno li riescono, e in Calabria, che meno li riescono a spendere. Grazie Guido Gentili, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani alle 17. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.